140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Sony Music, Milano. I successi all'estero, la vittoria a Sanremo, il podio all'Eurovision. Adesso il primo tour italiano per Gianluca, Ignazio e Piero. Il volo. Italiano, dopo 5 anni, pensa te. E non vediamo l'ora, perché comunque dopo Sanremo sono cambiate tante cose. E non vediamo l'ora di vedere i nostri fan italiani. L'anno scorso abbiamo avuto l'occasione di fare un piccolo tour anche al Teatro Antico di Taormina. Però quest'anno ci saranno spazi più grandi come l'Arena di Verona. Sono dei posti suggestivi, prestigiosi, no? Del nostro paese, no? Dove io più che concerti, più che tour lo chiamerei, come dice Ignazio, no? Sono degli eventi. Degli eventi dove veramente credo che, non perché faccio parte del volo, ma vale veramente la pena almeno venire a un nostro concerto una volta. Perché no, è vero, perché comunque è un repertorio classico e non solo. Ci saranno anche tante sorprese, non solo musica italiana, ma musica, canzoni nostre, anche canzoni americane, ad esempio. È un repertorio vasto, fatto da 3 cantanti che comunque hanno 3 voci diverse. E ci sarà, canteremo anche singolarmente, quindi questa è anche una novità. In America non ti devi adattare, però devi dare un omaggio a loro, cantando un brano in inglese, o in Sud America dei brani in spagnolo. Infatti noi, quando facciamo le versioni degli album, facciamo sempre la versione per il Sud America, una versione completamente in spagnolo. Sud America, Portogallo e Spagna. Brasile. In Italia canteremo il nostro repertorio, saremo Grande Amore, più dei brani singoli, e omaggeremo l'Italia, è chiaro, non canteremo dei brani in tedesco come facciamo in Germania. Intanto la soddisfazione per Sanremo Grande Amore, perché il CD va sempre alla grande. No, siamo felici perché da Sanremo, che siamo in classifica FIMI top 10, non siamo mai scesi, e solo una settimana sesti, poi top 5. E quindi no, siamo davvero felici perché stiamo vedendo che anche i più giovani si stanno avvicinando, che non è più visto come un genere vecchio, ecco, ma è visto come un genere, anzi, di innovazione musicale, no? Si è sempre pensato che questo genere è un genere classico, ma non è un genere classico. Come c'è il pop elettronico, c'è il pop dance, c'è il pop lirico, c'è il pop rock, ci sono tanti generi, e questo è entrato a far parte di una categoria di pop che prima non c'era. Il vostro rapporto coi social, com'è cambiato? Fino a pochi mesi fa, prima di Sanremo, scrivevamo solo in inglese e in spagnolo, perché non eravamo seguiti da persone italiane. Ultimamente, invece, il contrario no, perché comunque... Però ora scriviamo anche in italiano, per forza, perché sennò si lamentano. Ma perché scrivete sempre in inglese e in italiano? Scrivete in italiano, ci sono fan in Italia. E quindi questo è bello, ti fa capire come attraverso anche un social network... ti fa capire come sono davvero cambiate le cose. Intanto avete esordito giocando a calcio con la partita del cuore. Io ho fatto gol. Ci siamo divertiti, però oggi non ci possiamo muovere. Infatti facciamo tutte le interviste seduti. Ma lo sei? Io ho fregato la palla ad Allegri. Io ho fatto il tunnel ad Allegri. Ma voi visto? Volete parlare del... Aspetta, come si chiama quando tu vai addosso ad una persona? il contrasto per i fianchi. Gli ho levato la palla. Non gli va giù, capito? Perché Del Piero è il suo idolo. Io ho levato la palla Del Piero. No, quindi no, lui. Non gli hai levato la palla, è venuto sopra. C'è diversa. Eri in contrasto con un altro e ti è venuto sopra. E io ho levato la palla, certo. Ma se non c'ero, lui passava, scusami. Questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, e questo canto e canto te. Guardando la lista dei concerti che avete di fronte, avete davanti una estate intensa, vacanze niente. Allora ti spiego, che alla fine su giugno, luglio, agosto, settembre sono 23 concerti, quindi alla fine non sono nemmeno tantissimi, però non avremo un attimo di tempo libero, di tregua, perché comunque il disco uscirà... autunno, comunque agosto, settembre, non si può dire, però comunque sappi che saremo impegnati per la promozione dell'album durante le settimane di... quando è che abbiamo un po' di tempo libero? No, non avremo il tempo libero perché verrà pubblicato l'album in Sud America, quindi dovremo promozionare l'album. Sarà molto stressante, ma lo faremo con tutto il cuore perché sappiamo benissimo quanto importante sia questo momento per la nostra carriera. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Il Volo. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.